ricevi ogni sera nel tramonto triste del sol. Forse una promessa non era, forse buonasera, mi dicevi. Buonasera, rispondevo, mio tesor. Sei tutta la mia vita, io ti dicevo allora. Sentivo nelle vene tutto il fuoco del mio grande amor, sol per te. Senza amore le mie labbra tu baciavi, già pensavi di lasciarmi, ma perché? Nel tramonto per sempre aspetterò, ma nessuno buonasera mi dirà. La mia vita, io ti dicevo allora, sentivo nelle vene tutto il fuoco del mio grande amor, sol per te. Senza amore le mie labbra tu baciavi, pensavi di lasciarmi, ma perché? Invano nel tramonto